Grazie, arrivederci, se non ci siamo persi. Dopo questo viaggio, tu cadi in catalessi. Insegui il lessico mediocre, pensi in viva voce. Pensa al muto che non parla perché non ha voce. Se ti mancherò, una soluzione c'è. Metti il disco in play, adesso fai re te. Ne gusti già l'essenza in ogni sua teoria. Se qui la fantasia è diventata un'utopia, la gente vede bianco e pensa solo in nero. Hai visto già il mio nome, ma era sopra un treno. Adesso senti questa e metti un punto a capo. Se dici cielo terzo, ne sentirai il boato. Ma sono qui adesso solo per salutarti, prima che finiscano i miei quattro quarti. Non troverai politici né falsi testimoni, solo amici che indan vita a musica e emozioni. Quindi sii paziente, aspetta il nuovo pezzo. Vedrai che con il tempo scopri il mio estro. Questa è pura vita, non presa per il culo. Non troverai il mio viso stampato su di un muro. Arrivederci e grazie, la fine è ormai arrivata. Adesso tira indietro, qualche traccia l'hai schippata. Arrivo dritto al punto, adesso non allungo. Arrivederci e grazie, io tolgo il disturbo. It's that fellow from France. He was here yesterday, but you were too busy. Now he's back again. Arrivederci, grazie.